La libertà di parola è fondamentale per la società. Le associazioni Geopolis e Paideia presentano la seconda edizione del Festival dei Diritti Umani, sulla tua pelle, sulla nostra pelle. Un'edizione dedicata alla libertà di parola, stampa e ricerca scientifica. Riflessioni, dibattiti e incontri con giornalisti, attivisti e ricercatori. Vi aspettiamo sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre presso la Sala Biagi, complesso del Baraccano, via Santo Stefano 119 a Bologna. Maggiori info sui profili social di Geopolis e Paideia.